9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buongiorno cari amici, buon inizio di settimana, buon lunedì 20 di febbraio, auguri anche a chi si chiama Eleuterio, questo è il nome del calendario liturgico. Oggi puntata dedicata allo stato etico di Egadiana Memoria, quello che è il fondatore dell'ordinamento, il depositario dell'idea di ciò che è giusto, della sua traduzione in leggi, in induzioni e disincentivi attraverso gli effetti delle sue leggi nell'ordinamento fiscale, nell'organizzazione amministrativa. Lo Stato indirizza le nostre vite da guardiano, per così dire, di diritti fondamentali e da rispettoso del diritto naturale che è precostituito, e oggi faremo una riflessione proprio su questo. Lo faremo insieme a un professore che insegna intermediari finanziari, materia che mi è cara, sono a contratto pure io in questo, so che lui è un ordinario, insegna all'Università della Calabria e qui in studio si chiama Pierangelo da Crema. Buongiorno e grazie professore. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. E che ha scritto un libro meraviglioso, un libro che è un inno al politicamente scorretto, che ai gattacci libertari come me naturalmente induce all'immediata, non si può dire a quest'ora che cosa, ma perché il titolo del libro è Fumo, bevo e mangio molta carne. E cominceremo però la riflessione con due piccole riflessioni etiche, sempre sullo stato etico, che precedono la traduzione del libro. Come sempre, prima di arrivare a tutto questo, 3 minuti sulla stampa europea del perché noi apriamo con The End dei Doors, che non è solo un inno naturalmente alla mia generazione e a chi rimpiange Jim Morrison, ma è il monito nei confronti del problema aperto dell'euro. Allora, questo fine settimana sulla stampa internazionale e quella europea in particolare, sembra che sia prevalso nei contratti riservati tra cancelleria tedesca e membri del board del BCE un nuovo riaggiustamento positivo nei confronti di come mettere in cantiere la nostra questione, come farla uscire dal cantiere del salvataggio greco. Da questo punto di vista, oggi è atteso, come sapete, la riunione dell'Eurogruppo che dovrebbe fare un passo avanti rispetto ai no della scorsa settimana, che sembravano diluire fino a fine marzo, anche solo la prima tranche dei 130 miliardi, che sono la seconda iniezione dopo i 110 miliardi della Grecia dell'anno scorso, almeno così sembra la convergenza del leggendo Reuters e un po' di altri giornali europei. È confermato che il Fondo Monetario Internazionale, nella sua ultima analisi sulla aggiornata dopo il voto del Parlamento greco, stima che a fine 2020 il debito pubblico greco non sarà, in ogni caso, anche in traduzione concreta di tutti quegli impegni, meno del 129% del PIL greco. E comunque nel fine settimana, secondo Katemerini, il giornale greco che citiamo sempre, sono stati assunti impegni per quei 325 milioni che ai tedeschi non tornavano del pacchetto complessivo. Mi limito a segnalarvi sul Financial Times di oggi un editoriale di Wolfgang Munchau, che rimane sulla linea molto critica nei confronti di come i tedeschi abbiano impostato la questione. E Wolfgang Munchau dice che in realtà i tedeschi adottano una linea a casa loro sul preservare il Bundestag e il Parlamento su ogni singola clausola che componga oneri aggiuntivi non decisi in Germania, ma in Grecia e negli altri paesi adottano la regola assolutamente opposta. Quanto poi alla faccenda tedesca che venerdì ha fatto saltare il vertice con Monti, Merkel ha perso perché il suo aveva accelerato la dimissione del presidente Wolf, questa è stata la giustificazione formale, perché intendeva sostituirlo con Wolfgang Schäuble, che ministro delle finanze arcigno, che rappresenta la linea ancora più dura della sua, triangolata con olandesi, austriaci all'interno del governo tedesco. Ma ha perso perché fin da venerdì, dal pomeriggio di venerdì e soprattutto sabato, è risultato chiaro in Germania, questo raccontano Financial Times, Deutschland, Frankfurt, Allgemeine su Deutsche Zeitung, che la FDP, l'altro membro della coalizione, ha fatto fronte comune con i socialdemocratici dell'SPD, quindi a quel punto è tornato in pista ed è a quanto pare il vero candidato numero uno per convergenza, il candidato che nel 2010 era invece proposto dai socialdemocratici dall'SPD, e quindi di qui la forza di Joachim Gauck, questo pastore protestante della Germania Est, intemerato e temerario, voglio dire, oppositore del regime della DDR. Quindi Wolfgang Schäuble rimarrà come una spina aperta all'interno del governo tedesco. Mi fermo qua e parto sulla cosa dello stato etico con due esempi. Arriviamo prima di arrivare al libro, l'ennesima sentenza, ne avete trovato traccia sul Sole di venerdì scorso, la sentenza della Corte di Cassazione numero 2193 del 2012, che è stata depositata il 16 febbraio. Per l'ennesima volta lo Stato applica a dei contribuenti, nella fattispecie erano dei membri di una società che nel 1999, sull'esercizio fiscale 1999-2000, hanno applicato le leggi vigenti per le deduzioni di mutui e prestiti finanziari a se stessi in quanto soci della società di cui erano appunto consoci, hanno applicato le leggi all'epoca vigenti. Se non che nel 2005 cambia un'interpretazione normativa su come si fa il regime di deduzioni tra soci quando uno o più dei soci sono radicati all'estero. Nella fattispecie, 5 anni prima, alcuni dei soci di quella società erano residenti negli Stati Uniti. A quel punto l'Agenzia delle Entrate, per una norma che entra in vigore 5 anni dopo, si rivale sui soci, dice che deve prevalere l'applicazione favorevole allo Stato, ed ecco che oggi la Corte di Cassazione dà ragione all'Agenzia delle Entrate. Pur non sapendo che 5 anni dopo cambiava la norma, i soci dovranno pagare ciò che c'è scritto nella norma di 5 anni dopo, altrimenti è abuso di diritto senza rete. Voi capite che questo può essere uno stato etico, uno che si riserva di modificare le norme a proprio vantaggio e la Corte di Cassazione dà ragione all'Agenzia delle Entrate 5 anni dopo? Io dico di no. Secondo esempio, ci scrive, sono tantissime le mail arrivate in questo fine settimana, in questo caso è un dottore veterinario di Verona, Emiliano, mi prega di non fare il cognome, perché gli è arrivato il bollettino postale da pagare di ben 200,91 euro. Perché nel suo studio veterinario di medie e piccole dimensioni, non una grande clinica, con decine di clienti in sala d'aspetto, quest'anno si è scatenata l'Agenzia dell'Entrata perché chiede il pagamento del canone RAI a tutti gli studi professionali che hanno PC in rete, come se fossero per vedere la televisione. Con questo criterio state attenti, perché vi arriverà anche la richiesta dell'Agenzia delle Entrate di pagare il canone RAI se avete la PlayStation dei vostri figli, perché anch'essa è collegata a un video e potete metterlo in circuito con un server di PC e scaricarvi immagini televisive. Poi arriveranno i tablet, poi arriveranno gli smartphone, eccetera eccetera. Comunque c'è un'ondata di mail che noi riceviamo da studi professionali e piccole società sul canone RAI applicato a qualunque PC addetto a questioni amministrative nella propria agenzia o nella propria società. Capite bene che capisco anch'io che la base del nostro ordinamento del canone è quella di, in realtà, di una tassa di possesso di schermi apti a ricevere le immagini di una televisione, ma con questo criterio lo stato etico, che sta sempre ragione, è semplicemente uno stato esoso ed assetato. E con queste piccole due premesse di esempi paradossali dello stato che presume di essere etico e adotta in maniera asimmetrica le regole semplicemente che gli fanno comodo, arriviamo al libro di oggi del professor Pierangelo da Crema, il cui titolo, ve lo ripeto, è Fumo, bevo e mangio molta carne. E l'editore del libro, me lo sono dimenticato, professore, qual è l'editore? È Excelsior 1881. Excelsior 1881, ma è come sempre, anche dalla scelta dell'editore si capisce che l'Italia. Io, prima di chiedere al professore di illustrare, ha scritto anche libri sul PIL, cioè, no, il professor da Crema, per chi lo conosce, è uno strepitoso intrattenitore oltre che un tagliente economista, tagliente perché per esempio sul PIL è di quelli che dicono stiamo attenti, il PIL non ci dice solo i termini quantitativi, non ci dice tutte le esternalità negative che fanno parte del processo attraverso il quale quel PIL si realizza, quindi dall'ambiente eccetera eccetera. Però a me questo, quando ho letto i titoli del sommario, prima ancora di leggere il libro, e cioè fumatori si diventa, per esempio, la tempra del fumatore, fumare, non fumare, vivere più a lungo, è ovvio che il professor da Crema non è matto, non è un relativista che inneggia al suicidio, però insomma spiega in questo, come nella parte del mangiare animali, dichiarazione d'amore per la carne, quindi vedete quanto siamo scorretti, praticamente essere benessere che più tardi nella programmazione serve a riequilibrarci, però è un libro, diciamo, sulla tolleranza innanzitutto applicata a noi stessi, ma anche con la modesta richiesta che lo Stato non ci venga a dire tramite tasse, induzioni, interpretazione dell'articolo 21 della Costituzione. Sapete che qui il diritto alla salute è diventata la maniera attraverso la quale con le tasse ci dicono che cosa dobbiamo mangiare, quanto dobbiamo bere, quanto non dobbiamo bere, eccetera eccetera. Professor Da Crema, come le è venuta questa cosa di scorrettezza assolutamente totale? Lei ammette di aver fumato con i suoi bambini piccoli, rischia l'arresto per genocidio. Sì, del resto una donna che viene sorpresa con un martini in mano a New York, fosse incinta, rischia l'arresto, non in senso metaforico, ma lo rischia davvero. L'idea è nata dalla lettura di un libro che si chiama Eating Animals di Jonathan Safran Foer, mi era capitato in mano. Io sono un fumatore, un bevitore di lungo corso, e quindi le critiche a questo riguardo nel corso della vita non mi sono mancate, ma mi sono sempre scivolate addosso. Quando ho capito che mi si puntava il dito contro anche come mangiatore di carne, beh, ho detto è il caso di scriverci sopra, perché il fatto alimentare è importante, insomma è una parte importante dei piaceri della vita. E poi c'è il rapporto con gli animali, insomma gli uomini hanno preso una decisione coraggiosa quando si sono separati dal resto degli altri animali, e quindi mi è venuta voglia di scrivere questo libro, insomma. E diciamo le reazioni che ha avuto nel praticare in vita queste cose, cominciando col fumare, diciamo oggi è diventata una cosa che si iniziano a guardare meno che negli Stati Uniti, molto meno, ammettiamolo, però insomma anche qui è diventato un posto dove l'interpretazione progressiva dell'articolo 21 del diritto alla salute in realtà consente sempre più a molti di alzare con le accise, non voglio dire, quei comportamenti intolleranti che invece sono la pratica americana. Gli americani praticano l'intolleranza su queste cose qua. Noi scegliamo, per così dire, la via fiscale, ma gli è capitato di essere, diciamo, di dover incrociare le lame con qualcuno che dice ma non me lo aspettavo da uno come lei, ma come sarebbe a dire? Sì, mi è capitato anche questo. La risposta nel mio caso è abbastanza facile. Insomma, la vita è fatta di abitudini e comportamenti che si costruiscono lentamente nel corso della propria esistenza, si cercano equilibri che non sono mai perfetti, a volte si cercano deliberatamente equilibri altamente imperfetti, e però sono fatti molto personali. Ecco, lei poco fa mi faceva venire in mente, quando un fumatore è accusato di gravare sul bilancio dello Stato, già che danneggiando la propria salute danneggia in qualche forma anche insomma il bilancio di qualche ente comporta pubblico. Una crescita di spese sanitarie per tutte le patologie connesse, cardiocircolatorie, al fumo. Esattamente, se pensiamo a quanto ha pagato nel corso della propria esistenza un fumatore come me in tasse, in accise sul pacchetto delle sigarette, io credo di essermi abbondantemente guadagnato il diritto di ammalarmi Iniziamo. Il professor Da Crema pone un punto per chi a casa e dice: miserabili, voi che volete far pagare di più agli altri l'effetto del vostro fumo passivo, le esternalità negative che attraverso il fumo, io sono fumatore di sigare, professor, lo ammetto, quindi la capisco, che noi per così dire poniamo in essere con la catena dei nostri comportamenti rispetto a ciò che abbiamo pagato, non è qualcosa che ci si può indurre a dire ve ne fregate, perché non siamo nella condizione di potercene fregare con la pistola puntata alla tempia dello Stato, che prende sempre di più da questo punto di vista. L'ultima manovra è di fine anno, quello sull'accisa del tabacco, non è che stiamo parlando di una cosa. Poi io vi faccio riflettere che mi ha sempre colpito l'opinione di Henry Simons. Henry Simons è uno dei pionieri della scuola di Chicago, quella a cui ohimè faccio riferimento, che era un americano, ma era un americano di quelli autocritici rispetto all'eccesso del calvinismo, perché diceva classicamente che tassare con le accise, e faceva proprio sempre l'esempio di quello del fumo, era un classico esempio di come funzionasse la mentalità calvinista, perché con le accise più alte gli eletti, cioè fumatori, tassano i dannati, cioè naturalmente i fumatori, e così si liberano di un bel fardello fiscale, avviando sempre di più peraltro i peccatori fumatori al loro destino, perché tassati di più e ovviamente anche con gli effetti del fumo. Secondo me gli effetti delle accise calviniste funzionano un po' così. Ma sua moglie, come, rispetto a questo uomo così terribile che lei era, fumando, bevendo, eccetera, come reagiva? tutto sommato bene, ha sempre dimostrato di essere una persona tollerante. Certo, ha cercato di arginare, insomma, o di tagliare con le punte dei comportamenti estremi, però tutto sommato mi sono, insomma, trovato bene, ecco, ho avuto a che fare con una persona disposta al dialogo e anche disposta a sopportare qualche sacrificio. Quando i rapporti, insomma, tra vittima e carnefice sono chiari, quando esiste qualcuno che impone ad altri con durezza, addirittura con violenza, un comportamento sbagliato, beh, allora è facile capire con chi è il caso di schierarsi, ma quando entrano in gioco, insomma, comportamenti, abitudini più sfumate e ruoli più sfumati, ecco lì io veramente rivolgo un invito alla tolleranza, perché altrimenti ci si accapiglia per nulla. Ecco, se un fumatore come me fuma tranquillamente la sua sigaretta su una panchina e qualcuno si avvicina e mi si siede accanto e, come mi è capitato, mi ha chiesto di allontanarmi, ecco, questo è eccessivo. Ecco, la prevaricazione può venire dalla parte, diciamo, apparentemente più innocente. Ora, è vero, perché vedo che alcuni ascoltatori mi dicono: ma guarda che proprio nella tua tanto cara America l'intolleranza e anche le decisioni molto invadenti e inibenti dei singoli stati, perché qui stiamo parlando di legislazione che non è tanto federale, quella per esempio sui junk foods o la tassazione sui soft drinks, le misure sulla vendita del inibenti la vendita del tabacco, sui labels, su come si fanno i pacchetti, in quali orari del giorno, in quali esercizi, queste sono statali e in taluni casi anche di contea. Però è verissimo quello che mi fanno notare alcuni ascoltatori, è perfettamente vero che le prime misure, figurate, il proibizionismo, da dove volete che sia venuto negli anni 20 del secolo scorso, e anche su queste materie, dalla tassazione a norme particolarmente invisive, effettivamente sono molti, per esempio gli Stati dell'Unione, in cui sono imposte tasse e restrizioni dagli snack al fumo ai soft drink. Detto questo, mica io sto dicendo che quello è il paradiso in terra e noi siamo all'inferno. La questione è quella di avere un limite entro il quale l'interpretazione del diritto alla salute non divenga come matrice economica e come fonte di diritto evolutivo una cosa per la quale chi fuma, chi beve e chi mangia la carne, perché siamo ormai anche alla dietetica di Stato, si senta in un angolo sempre più additato, oltre che al maggior prelievo, allo scandalo pubblico, come se fosse una specie, o no? Certo, essere esposti al pubblico ludibrio perché si fuma, perché si beve e a questo punto anche perché si mangia carne, a me sembra eccessivo. Lo stato etico fa paura, può intimorire ancor più di uno stato immorale. Diceva Wittgenstein: dell'etica non si può dire, non a caso. Poi etica ed estetica sono tutt'uno. Etico è un fatto, non è è un gesto, non è una legge, non è una prescrizione. E non a caso, insomma, i ragionamenti sull'etica sono destinati a non esaurirsi mai, e ben venga che non si esauriscano. Appunto, perché esaurirsi significa che c'è qualcuno che dice: stop, l'etica è la mia. Esattamente, diciamo, esattamente. La storia è successo così. Allora, noi adesso abbiamo, per autoequilibrarci, perché qui siamo due scorrettissimi, come avete capito, chiaramente, noi abbiamo, dopo la pubblicità, abbiamo con noi il professor Giorgio Calabrese. Il professor Giorgio Calabrese insegna dietetica e nutrizione umana, quindi noi non è che non vogliamo escludere le persone, sapete e conoscete benissimo, il professor Calabrese è un grandissimo divulgatore, oltre a insegnare dietetica e nutrizione all'Università degli Studi di Torino e a scrivere sulla Stampa, fa spesso capolino in televisione, in radio, eccetera, ricordandoci ciò che è meglio non fare. Almeno lui non ha però le armi del diritto, dell'ordinamento e del fisco che invece lo Stato esercita. Lui lo fa per il nostro bene. Eccoci tornati in studio con questa riflessione critica, il libro scritto dal professor Pierangelo da Crema, che è qui un economista in studio con noi, il libro che si intitola, ve lo ripeto, Fumo, bevo e mangio molta carne, editore Excelsior, 1881. Nell'881 c'è un po' di polvere del tempo, come vedete, nel nostro essere libertari, quindi più avanti di voi che siete magari stato eticisti, ma anche con un certo senso della tradizione. Allora, è con noi il professor Giorgio Calabrese, insegna dietetica e nutrizione umana a Torino, scrive per la Stampa, spesso ci ricorda tutto ciò che verrebbe da dire e sbagliato a essere amici della carne, del parte terza mangiare animali, come si trova nel libro del professor Da Crema. Come la mettiamo, professor Calabrese, dovendo lei naturalmente dare consigli e stilare diete equilibrate per impedire di farci del male mangiando, sia pur preservando il gusto come fa sempre lei, di fronte a uno stato etico che dice con le tasse, con le accise, con le leggi che cosa è giusto e che cosa non è giusto fare e lo prescrive all'individuo? Ma intanto buongiorno a tutti e anche ai vostri ascoltatori. Siete due intellettuali di alto livello ma molto monelli, perché avete lanciato un messaggio a favore del fumo che non mi piace. Allora io rifarei il titolo del collega, che mi sembra molto interessante, l'ho letto il libro ed è veramente intelligente, però non condivisibile da un medico, da un nutrizionista, da uno scienziato come sono io. Dunque, io l'avrei chiamato: non fumo, bevo moderatamente e mangio la giusta carne. Il che vuol dire che, come vede, ci sono due positività e una negatività. Il fumo serve solo a essere un vizio e serve allo Stato a incassare soldi, quindi noi che ci lamentiamo delle tasse, noi abbiamo deciso di autotassarci, quindi possiamo decidere noi quante sigarette fumare ogni giorno e quindi quante tasse pagare oltre quello che poi invece diciamo non condividiamo oppure su cui protestiamo. Il rapporto del bere e del mangiare la carne. Partiamo subito dalla mangiare la carne. Vedrà stasera o domani sera ci sarà un porta a porta dove io difendo la carne, perché mangiare la carne, diceva bene il collega, è un rapporto in cui l'uomo si è differenziato dall'animale, poi ha capito che dalla carne nascevano delle giuste proteine nobili ad alto livello, c'era il ferro di tipo M che ci permette di legare il giusto ossigeno, c'è la vitamina B12 che permette di prevenire stati di anemia, ma anche di aiutare il sistema nervoso, ha una sostanza che si chiama CLA, acido linoleico coniugato, che serve anche nella donna per prevenire il cancro al seno. Attenzione, ma se mangio molta carne, io mi aspettavo a questo punto nel titolo anche la mangio fritta, in modo da fare strike su tutto, ecco, era già bello e fatto, capisci? Quindi io dico monello al collega, perché lui ha voluto fare una bella provocazione, ma non la condivido come medico, ma non perché mangia la carne, ma perché ne mangia tanta. Dice il bere, chi le parla difende il vino da sempre. Io sono addirittura presidente nazionale dell'ONA, l'organizzazione nazionale degli assaggiatori del vino, veda, non dei bevitori del vino. C'è la moderazione. Allora, questo libro, io lo prendo, essendo il collega un eminente economista e un uomo che sa dare, vedo che anche molta sagacia, con molta ironia con se stesso, che sa dare vitalità al suo messaggio, però il fatto che lui fumi tanto, beva tanto e mangi tanta carne non mi trovo d'accordo. Lo so, ma vede, io credo che gli individualisti sono più facilmente ironici degli eticisti, che di solito tendono a essere savonaroliani. Questa è un po' la mia idea. È ovvio che nessuno di noi può essere ritenuto, per così dire, all'oscuro delle conseguenze che l'evoluzione del pensiero scientifico, attestato in ricerche, ci dicono dell'abuso di questo o quel principio nutritivo, dell'uso del fumo, di ciò che vi può essere collegato, eccetera, eccetera. La questione è un po' quella della scelta individuale, professor Da Crema. Sì, secondo me rimane importante. Oddio, capisco che il professor Calabrese debba lanciare messaggi congruenti con la propria professione, la propria missione anche di vita. Però il tema dell'individualismo, degli eccessi di individualismo, è molto opinabile, molto controvertibile. A chi, per esempio, mi accusa di un eccesso di individualismo e di scarso senso della collettività, tendo a ricordare che la collettività io non l'ho mai incontrata per strada, voglio dire, non ho mai stretto la mano alla collettività. La collettività è fatta di individui, quindi la collettività viene rispettata se, anche e soprattutto, quando viene rispettato il singolo. Allora, iniziamo a sentire un po' di ascoltatori e io prego Giorgio Calabresi di rimanere con noi un po' di minuti per ridarci una buona dose di equilibranti bacchettate, e lo dico con rispetto. È ovvio che noi oggi abbiamo impostato, esattamente come il professor Da Crema, il libro come si fa, con un grido di dolore. Un grido di dolore è una roba che serve a rompere i decibel di fondo e apposta alza l'emissione, l'intensità dell'emissione. E così noi ci siamo dati questo moderatore nella forma del professor Calabresi. Iniziamo a microfoni aperti a sentire come la pensano i nostri ascoltatori. Allora, cominciamo con Silvio, che si chiama la provincia di Salerno. Prego Silvio. Salve, buongiorno a tutti. Volevo più che altro portare un po' la mia testimonianza, un po' la testimonianza personale, un po' lavorativa. Io sono un terapeuta e mi trovo spesso a combattere contro disordini alimentari che causano diverse patologie. Ma io, parlando da ex obeso, ex non voglio dire alcolista, però due bottiglie di vino a pranzo non mi facevano affatto male, ed ex fumatore, adesso con 50 kg in meno e una buona attività sportiva, ho notato, e invito tutti a fare esperienza, che l'eccesso è una droga, cioè mangiare molta carne fa mangiare molta carne, fumare molto fa fumare di più, nel momento stesso che si va a privarsi si soffre tantissimo, ma poi si raggiunge un equilibrio. Posso solo chiedere di sperimentarlo, cioè non limitarsi perché fa bene o fa male. Sì. Quando si raggiunge l'equilibrio si mangia veramente perché si ha bisogno di mangiare. Guardi che però io vorrei che legga il libro del professor D'Acrema, non troverà un invito a condurre esistenze per cui a 27 anni ci si trova suicidati per eccesso di droga, alcol e bourguignon a tonnellate, anche perché il professor D'Acrema porta purtroppo per noi meravigliosamente bene i suoi anni, ha una limpida cosa familiare, ma una faccia da sciupa femmina, come si direbbe tecnicamente, di quelle, con un sorriso assoluto. Quindi insomma, diciamo, mi pare abbastanza bravo fino a questo momento nell'arte di evitare le dipendenze. Mi pare che gli amici dicano che bevicchia parecchio, però io non so come fa, ma credo che si sappia moderare. La questione qui è sollevare un paradosso tra la dipendenza autodistruttiva e la libertà dell'individuo invece nel praticare ciò che si mette al bando negli atteggiamenti pubblici e dello Stato. C'è qualche cosa di mezzo? C'è, ecco, noi siamo convinti di questo. Sentiamo Davide dalla provincia di Bari. Prego Davide. Pronto, buongiorno. Io intervengo proprio dicendo che innanzitutto parliamo di istinti e piaceri. Abbiamo le valvole di sfogo che servono nell'essere umano e vanno moderate con l'istinto di farti una sigaretta, il piacere di assaporarla e saper poi moderarla con la via di mezzo, no? La quantità. Io sono un fumatore di sigari e, ritornando al discorso dei dazi, dei pagamenti, faccio l'autista di Pullman, vado spesso all'estero, faccio il nome dell'azienda, così ci intendiamo, io acquisto, compro i Toscanello al caffè. Sì. Mi sente? Sì. Perfetto, sono fumatore di Toscanello a caffè che in Italia pago a 4,10 euro. Sì. Andate a controllare in qualsiasi tabaccaieria. Sì. Perfetto, lì compriamo a 4,10 euro con monopolio di Stato. Io allo Stato lussemburghese, dove compro i Toscanello al caffè, sempre col monopolio del Lussemburgo, pago i Toscanello a 2,70 euro. E quindi lei dice a 1500 chilometri loro trascurano l'esternalità negativa del fumo, o secondo lei hanno semplicemente la finanza pubblica leggermente più in ordine della nostra complessivamente? Perché poi sa, secondo me loro hanno in ordine un po' tutto, al di là della quantità di Toscanello che uno si possa talmente fumare. Adesso subito ci hanno detto che Liechtenstein è più piccolo della provincia di Como. D'accordo, va bene, d'accordo. Sì, però è vero. No, ma qua non si tratta di fare dei paragoni di dimensione, di quantità. Qua il problema è proprio di mercato, no? Al di là del, ripeto, l'utilizzo del piacere è come mangiare. Se io mangio e mangio di più o mangio di meno, è vero che il signore che è diminuito e è sceso di 50 kg, sicuramente la sua valvola di sfogo è stata solo mentale, cioè io devo raggiungere questo obiettivo, ma il piacere fisico di mangiare, il piacere mentale di fumarsi una sigaretta dopo un caffè è imparagonabile. Attenzione a dire imparagonabile, perché poi magari guardi che nell'autodisciplina e nel raggiungimento di un equilibrio di sé e nel capacità di darlo agli altri ci sono fonti di soddisfazione che non sono proprio così secondarie, cioè, però insomma, diciamo, lei difende il punto di vista di chi poi fuma e vede che all'estero soprattutto lo Stato è meno ladro del nostro. Sentiamo ancora Sergio da Catania, poi torniamo al professor Calabrese. Sergio. Sì, buongiorno a tutti voi. Io ho una posizione, diciamo così, equilibrata, perché terza, sono d'accordo completamente col professore Calabrese, infatti non fumo, per il resto sono moderato, però sono d'accordo anche con voi quando dite che, voglio dire, niente deve essere imposto, ma casomai auto, diciamo così, autoimposto per convinzione. No, e mi veniva la curiosità di capire se per paragone, per parallelismo si poteva fare un libro dal titolo Corrompo, Evado e Sono contento, e a questo punto che tipo di critica si poteva fare allo stato etico a un libro, diciamo, si è intitolato in questo modo? No, guardi, scusi, ripeto, io per aver citato la sentenza, io la voglio ricitare, perché immediati difensori dello stato etico tra gli ascoltatori, che credono che critichi per rimpianga Berlusconi, perché qui in Italia il merito non vale mai, io ho detto che il governo precedente se doveva andare, ciò malgrado, le sentenze di Cassazione, e mi dispiace dirlo, di Corte Costituzionale in materia fiscale, che danno asimmetricamente ragione allo Stato in materia di abuso di diritto, questa rientra nella categoria abuso di diritto, sono scandalose, e giurisprudenza che induce i cittadini nella condizione del servaggio fiscale. Capite? Perché se siamo al punto che l'Agenzia delle Entrate ha diritto a chiedere l'applicazione ex post di 5 anni di norme anti-elusione, di cui non voglio discutere il fondamento, ma sono successive all'anno fiscale in base al quale, con le leggi vigenti allora, i soci avevano calcolato il regime di deduzione degli interessi passivi finanziari, siamo al servaggio, perché purtroppo nel nostro ordinamento le sentenze di Cassazione e di Corte Costituzionale hanno fondato la categoria per la quale l'abuso di diritto è asimmetrico, cioè l'interpretazione è che sono i contribuenti a praticarlo nei confronti dello Stato, ma lo Stato nei confronti del contribuente. Mi si dice non sai di diritto, mi metto a sorridere purtroppo. Chi lo dice, e in questo caso mi prendo veramente il diritto di un giudizio tranchant, come farei con uno studente, chi lo dice confonde la politica, attribuendola a me, con invece l'amore per il diritto. E l'abuso di diritto, quando c'è un negozio tra due parti contraenti, e anche il patto pubblico deve essere sempre concepito così, non è unilaterale, sempre ragione da una parte. Chi ha quest'idea del diritto positivo ha una questione di filosofia del diritto diversa dalla mia. Per me gli individui sono contraenti con lo Stato persona, altrimenti se diventano strumenti non è la mia filosofia del diritto, e io rigetto un'idea di ordinamento fondata su questo. Allora, perché ci sia una base accettabile in qualunque negozio tra parti contraenti, l'abuso di diritto lo possono commettere una parte come lo può commettere l'altra, e in questo caso mi pare un po' intollerabile che l'abuso di diritto per sentenze statuali, sia pure della magistratura che parte terza, rispetto al governo, siano solo da parte del contribuente. Guardate che questa è una questione, siccome riguarda la filosofia del diritto, che riguarda anche esattamente i temi toccati nel libro del professor Da Crema, Fumo, Mangio e Bevo Molta Carne. Torniamo coi Doors, naturalmente come all'inizio, per ricordare ai nostri ascoltatori che l'eurocrisi è ancora aperta e ben lungi dall'aver svoltato tutto nella positività che molti si illudono. Detto questo, una domanda al professor Calabrese. Professor Calabrese, quando c'è il ministro della salute, per esempio del governo Monti, che è un ministro che ha energicamente fatto intendere di essere più deciso dei suoi predecessori nel voler imboccare la strada della tassazione del cosiddetto junk food, i cibi spazzatura e così via. Tuttavia le faccio una domanda: per esempio tassare le bollicine, le bevande gassate o cibi con grassi saturi di un certo tipo piuttosto che un altro, per esempio, non rischia, come molti studi negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, prima di assumere misure simili che sono state assunte in quei paesi, anche la Francia si sta dotando di norme di questo tipo, però molti hanno fatto notare che in quel caso aumenta, ovviamente per effetto dell'accisa e dell'imposta, il prezzo di quella categoria di prodotti, e magari altri che non sono nel mirino ma sono di qualità più bassa hanno effetti altrettanto, se non più ancora negativi, in parte di classi di consumatori che ovviamente devono stare sempre più attenti al reddito disponibile che danno ai consumi e che magari possono essere attirati dall'alta, più alta tassazione in nome del principio etico a effetti nella loro alimentazione o nella loro vita ancora più negativi, proprio perché paradossalmente l'effetto che lo stato etico raggiunge è l'opposto di quello che si prefigge. È vero o non è vero che può capitare questo, secondo lei? Le rispondo in modo molto netto e molto chiaro. Nell'ultima settimana chi le parla domenica scorsa sul Messaggero e l'indomani sulla Stampa di Torino, ho fatto due editoriali spiegando all'ottimo ministro Balducci, che è una persona per bene, che è competente anche se non è un medico, che ci sono alcuni errori nel suo modo di fare, che sono questi. Quello che lei dice è condivisibile, perché il concetto del proibizionismo non paga mai, altrimenti tutti quelli che fumano, visto che da anni c'è scritto che fumo nuoce alla salute, che fa morire, che fa creare il cancro, avrebbero dovuto dimezzare i fumatori, invece li ha fatti aumentare. Il concetto di fondo qual è? Nel campo della tassa col junk food è di nuovo come chi decide di fumare, cioè decide di aumentare le tasse, in questo caso è il governo che le aumenta, nell'altro caso era il fumatore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi non dobbiamo preoccuparci nei confronti di un anziano che non ha, che ha 500 euro e forse meno di pensione, se questo deve mangiarsi tanta maionese, perché quello non la comprerà mai. Il suo problema è sapere che c'è uno Stato che ti dice: tu per vivere bene, almeno vivere in qualità, devi mangiare più frutta e verdura. Quanto costa oggi la frutta e verdura? Abbastanza. Allora defiscalizziamo questo cibo in modo tale che l'anziano o comunque il non abbiente, forse anche giovane, possa comprarlo. Quindi il problema non è a mettere un'accise su ciò che fa male, sul junk food, ma di abbassare il costo del cibo buono. Ma le dico un'altra, le dico una chicca, non ho ancora parlato con nessuno io di questa cosa qua, ne parlo stamattina perché è una cosa di due giorni fa. Esiste nel Ministero della Salute il 17 o il 15 o il 17 di febbraio una richiesta che mi ha orripilato: la dieta tisanoreica. Una dieta, a dire del suo fondatore Gianluca Merco, con cui ho avuto degli scontri verbali naturalmente e intellettuali a porta a porta. Sono noti, esatto, sì. Esatto. No, dico, questo ha convinto il Ministro della Salute, la Commissione Salute della Camera, a far diventare la dieta tisanoreica dieta dello Stato, no. Una dieta che lui stesso dice squilibrata e che deve, non può essere utilizzata per tanto tempo. No, ma mi scusi, attraverso quali forme diventa dieta dello Stato? No, lui ha proposto che alla commissione, che pare la stia approvando, di farla passare come obbligo, tant'è che c'è anche, e sono anche esterefatto, il presidente dei farmacisti italiani, che prima ha fatto su alcuni giornali la pubblicità e ora addirittura ha avallato assieme a alcune federazioni dell'ordine dei medici questo tipo di messaggio: una dieta chetogena, una dieta, uno, che fa male, secondo, che non risolve il problema, terzo, che ti fa riprendere i chili con interessi da usurai. Allora qui dobbiamo essere chiari. Autoalimenta, quindi, per così dire, ecco. Ma perché qui si è creato un discorso diverso. Io continuo a dire, io non sono contro questo governo, anzi penso che siano persone per bene, comprese Balducci, ma che siano mal consigliati da persone che non sono in buona fede. Vabbè, la dieta di Stato la approfondiremo, perché non potremo che essere insieme al professor Calabrese, ma adesso affidiamoci alle sagge, saggissimo, perché io poi vorrei che voi leggeste anche gli altri di professor Da Crema, quelli in cui Da Crema mette la testa e l'evoluzione del suo pensiero su cose fondamentali, dalla crisi finanziaria di questi anni e così via. È uno stupendo docente, ma soprattutto è uno di quelli che insegna avendo molto di più nel suo pensiero, in come si è evoluto negli anni, perché io poi l'ho osservato invecchiando io, lui è un finto giovane, purtroppo, maledizione, e quindi gli chiedo, professor Da Crema, di concludere con qualche considerazione. Proprio l'ultimo capitolo a me è molto piaciuto, Il seme del vizio. Lei parla di un equilibrio tra le questioni che abbiamo affrontato oggi, quelle anche dei peccati veniali, degli effetti dei propri comportamenti, rispetto alla tolleranza. Sì. L'Italia in cui siamo cresciuti era diversa da questa. È vero. Il seme del vizio è diffuso, ed è diffuso anche in chi non sa di coltivarlo, anche in chi non si rende conto di avere comunque qualche vizio. Voglio dire, è facile puntare il dito addosso agli altri, un po' meno facile è fare un'analisi di sé, ed è proprio per questo che diventa sempre più raro il frutto della tolleranza. Si vedono i vizi altrui, si trascurano i propri, e quindi si pensa di avere, diciamo, in automatico un comportamento migliore di quello altrui. È questa la base in base a cui poi si dice: questo dovete fare, questo non dovete fare. Noi che siamo critici dei nostri difetti vogliamo che anche gli altri lo siano, e a differenza di quello che avviene nel collettivo italiano. Quindi fumo, bevo e mangio molta carne. Professor Pierangelo Da Crema, appuntamento a domani. Mo vi beccate Essere e Benessere per 5 ore per equilibrare quest'ora scorretta di Giannino Da Crema. A domani.